English Bit di Giulia Crivelli. Reality check. Sanders, Cruz debate Obamacare. CNN's reality check team vets the claims. Il candidato democratico che ha perso le primarie contro Hillary Clinton, Bernie Sanders, ha affrontato il repubblicano Ted Cruz in un dibattito televisivo sull'Obamacare, la legge di riforma del sistema sanitario nazionale voluta dall'ex presidente Barack Obama e che Donald Trump vorrebbe profondamente cambiare se non cancellare, come promesso in campagna elettorale. Il reality check della CNN, che ha ospitato il dibattito, indica il titolo del resoconto che trovate sul sito del network All News, ha verificato, to vet, le affermazioni, claims, dei due politici. L'espressione che ci interessa è reality check, letteralmente controllo della realtà. Ma potremmo anche definirlo an occasion when you are reminded of how things are in the real world rather than how you would like things to be. Argomento molto attuale, visto che da qualche tempo non si fa che parlare di fake news, notizie finte. Ogni affermazione o presunta notizia è verificabile. Alla CNN c'è un apposito team. Certo, ci vuole tempo e impegno e da parte degli ascoltatori lettori ci vuole pazienza e desiderio di imparare, non solo di sottoscrivere slogan. L'altra parola interessante è il verbo to vet, regolare, to vet, vetted, vetted, che non ha niente a che vedere con i veterinari, ma significa controllare, verificare, passare al setaccio. All candidates are carefully vetted for security reasons. Tutti i candidati vengono controllati con cura per ragioni di sicurezza. All reports are vetted before publication. Tutti gli studi vengono verificati prima di autorizzarne la pubblicazione. Uno sguardo infine alla parola claim, che è sia nome sia verbo, regolare, to claim, claimed, claimed. The singer has denied the magazine's claim that she's leaving the band. La cantante ha bollato come falsa la notizia del settimanale secondo il quale starebbe per lasciare la band. She has more claim to the success of the book than anyone. Ha più diritto di chiunque altro ad attribuirsi il successo del libro. Make sure your claims for expenses are submitted by the end of the month. Assicurati che le tue richieste di rimborsi spese vengano presentate entro la fine del mese.